Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Diamo inizio al quinto volume della settimana, l'ultimo della settimana, tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM con Giulio Caperdoni. Giulio tra radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare per scrivermi direttamente, vi invito a farlo, le vostre parole possono diventare parte della trasmissione, indirizzo da utilizzare anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica e poi sito della radio www.radiorockfm.com, lì trovate le istruzioni per il podcasting come le trovate anche sullo spazio di Eclettica, myspace.com/eclettica, dove sono disponibili anche le playlist della trasmissione. La prima Alfa Romeo Giulia Super che si è vista a tagliacozzo è stata quella di Gilberto Timone. Aveva la vernice rosso cupo, i doppi fari tondi, lo scarico cromato e dietro la scritta Super vicino al bordo del baule. Per il paese verso le 7 di sera si è sentito il rombo che veniva da Avezzano, dove Timone aveva appena ritirato la Giulia dal rivenditore Alfa Romeo Pasquarelli. Era l'ottobre 1966 e a Gilberto Timone di stare attento al rodaggio dell'auto nuova non gliene importava niente. Si vedeva da come guidava, tirava le marce e faceva ruggire il motore e intanto trafficava col pomello della radio stereofonica che aveva fatto montare direttamente da Pasquarelli. Del resto il rodaggio era la tipica cosa che interessava a quelli che avevano paura del domani. E invece un domani, Gilberto Timone la macchina l'avrebbe di sicuro cambiata con qualche modello ancora più nuovo e più veloce, ne era convinto. E quindi tutte le magagne meccaniche sarebbero state un problema semmai per qualcun altro. Questo era l'incipit de La città scomparsa di Michele Governatori. Up for air,

posto dove lui è nato, io e mia moglie non l'avevamo mai visto. Oltre all'ostetrica e alla madre, probabilmente nella stanza c'era un ragazzo di corporatura grossa, con i capelli neri, crespi, quasi a riccioli, sudato e con le maniche della camicia tirate su. Era Don Massimo. 2 giorni dopo, la madre di sicuro è stata avvolta dal puzzo della centrale a carbone, che arrivava mescolato a quell'altro, di cavoli lessi e di panni sporchi. Per raggiungere la strada c'erano pochi gradini e lei li è scesi probabilmente con un bagaglio molto piccolo. Poi è andata via con una Fiat 126 rossa in versione polacca, che traballava e faceva rumore. Questo era l'incipit de Il paese delle cicogne, di Michele Governatore. You've been taken to paradise. Only in dreams can it feel this way. I'll be waiting on you by the riverside, feeding the swans and wondering. Someone's gonna miss you when you're gone. Try to catch you in the greenest field. I'll be waiting on you by the riverside, feeding the swans and wondering why. Thank you.